4F. Ascolta e rispondi. Quante ore corresti? Corsi 2 ore. Fino a dove corresti? Corsi fino alla spiaggia. Che cosa dipingesti? Dipinsi un ritratto. Che cosa dipingesti? Non dipinsi nulla. Chiudesti tu la porta? No, Paolo chiuse la porta. Chiudesti tu la cassaforte? No, Maria chiuse la cassaforte.